24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Il piano salvabanche spinge le borse, chiusura in gran rialzo per i listini del vecchio continente. Scontri ad Atene, la Grecia paralizzata dagli scioperi. Samsung all'attacco, bloccate l'iPhone in Italia e in Francia. Bentrovati da Roberta Pellegatta, un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Sul fronte economico, borse in rimbalzo e riflettori puntati sempre sulle banche. La Germania è pronta a ricapitalizzarle, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, spiegando che su questo tema l'Unione Europea deve prendere decisioni in fretta. Le banche dell'Unione Europea potrebbero aver bisogno, secondo la stima di Morgan Stanley, di attingere capitali freschi per oltre 140 miliardi di euro attraverso il Fondo Salva Stati, una volta che sarà potenziato con il meccanismo della leva finanziaria. I timori per il sistema bancario arrivano nel giorno del declassamento italiano di Moody's e del rapporto sull'Europa del Fondo Monetario Internazionale, secondo il quale la crescita dell'Italia negli ultimi 20 anni è stata deludente. Il problema dell'Italia è la crescita, ha spiegato il responsabile per l'Europa dell'FMI, Antonio Borges, ma i conti pubblici sono buoni, non sono mai stati meglio di ora, ha aggiunto, ricordando che l'Italia ha un avanzo primario persino migliore di quello della Germania. Dunque, secondo il Fondo Monetario Internazionale, è fondamentale che la determinazione mostrata dal governo italiano per migliorare i conti pubblici venga applicata adesso per la crescita. Non è escluso che l'economia mondiale possa tornare in recessione nel 2012, hanno avvertito gli esperti di Washington, che stanno ora studiando la possibilità di comprare insieme al Fondo Salva Stati il debito sovrano di paesi come Italia e Spagna in un tentativo di ripristinare la fiducia nell'area. Intanto giornata positiva ieri per le borse europee. Francoforte ha chiuso più 4,91%, Parigi a più 4,33%, Londra ha guadagnato il 3,19%, a Milano FTSE MIB, nonostante il declassamento di Moody's, su del 3,94%. Finale in gran rialzo per le borse europee che hanno ragionato su un imminente piano salvabanche, ipotesi suffragata anche dalle parole del cancelliere tedesco Angela Merkel, secondo cui la Germania è pronta a ricapitalizzare rapidamente gli istituti del paese e a discutere un piano europeo già il prossimo 18 ottobre, in occasione del vertice europeo dei capi di Stato e di Governo. I mercati hanno anche scommesso su un taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea alla vigilia del Consiglio Direttivo dell'istituto, l'ultimo presieduto da Jean-Claude Trichet. Il FTSE MIB è salito del 3,94%, snobbando così il taglio del rating sul paese annunciato da Moody's. A Piazza Affari si sono infiammate le Fiat Spa più 10% e le Fiat Industrial più 7,4%, dopo però gli scivoloni del giorno precedente. Il buon andamento del comparto auto ha messo le ali anche a Pirelli, più 7,2%. Hanno fatto bene le banche, con UniCredit che ha tirato la volata più 7%, forte della sua presenza in Germania, dove sono stati gettonati tutti i principali istituti di credito. Per contro hanno guadagnato meno dell'indice le Telecom Italia, più 1,1%, pagando dazio per il taglio del giudizio da parte di Standard & Poor's. Terna ha perso il 2,5% sul timore che Moody's possa rivedere al ribasso il giudizio, considerando che il gruppo è controllato per oltre il 36% dal Tesoro. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Andiamo in Grecia. Due giovani sono rimasti feriti negli scontri fra studenti e polizia ad Atene nel giorno della rabbia greca contro le nuove misure di austerità. In piazza, nella capitale e a Salonicco, sono scesi migliaia di dipendenti statali. Paralisi per lo sciopero di 24 ore indetto dai maggiori sindacati, fermo il trasporto pubblico, chiusi gli aeroporti e ospedali aperti solo per le emergenze. E alla Grecia, in questo momento difficile, arriva un incoraggiamento davvero particolare, quello di Sandro Campagna, CT della pallanuoto maschile italiana, campione del mondo, che ha allenato gli ellenici durante i Giochi Olimpici di Atene 2004 e Pechino 2008. Sentiamo Campagna al microfono di Dario Ricci. Mi dispiace moltissimo perché stanno soffrendo, ho parlato con i miei assistenti, con alcuni dei miei ex giocatori, però conosco bene il popolo greco, sono abituati a vivere nelle sofferenze e nelle sofferenze sanno reagire e sanno soffrire. Sono convinto che anche adesso ne usciranno fuori, hanno fatto una squadra che vuole andare alle Olimpiadi e giocano gratuitamente, giocano per il paese, so quanto tengono al loro paese, quanto amano il loro paese e in questi momenti di difficoltà verrà la natura dell'atleta greco che gioca con un grande senso di nazionalismo. E vedrete che la Grecia alle Olimpiadi, se va alle Olimpiadi di pallanuoto, farà un'ottima Olimpiade. Parliamo ancora di crisi economica che coinvolge anche gli Stati Uniti e che mette in difficoltà i bilanci della difesa NATO. Gli Stati Uniti stanno affrontando tagli drammatici alla difesa con implicazioni reali per le capacità della NATO. Leon Panetta, segretario americano alla difesa, parla a Nuora perché suocera intenda e se qualcuno non avesse capito, Panetta chiarisce. La crescente pressione sui bilanci della difesa, che sono già diminuiti in Europa, non può essere una scusa per non assumerci le nostre responsabilità di sicurezza nazionali. Dunque, a ciascuno il suo, perché gli Stati Uniti non possono, o meglio non possono più, assorbire tutti gli shock. Anche di questo si parla nella due giorni di vertice dell'Alleanza Atlantica, che intanto ha prolungato l'impegno in Libia per altri 90 giorni. È stato un grande successo, abbiamo evitato massacri e salvato vite umane, ha detto il segretario generale Rasmussen. Anche se Gheddafi non si trova, non c'è un'autorità certa e migliaia di missili di fabbricazione sovietica mancano all'appello. Ma le difficoltà degli alleati non finiscono con la Libia. Nella notte il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha bocciato la bozza di risoluzione contro la Siria. La rappresentante americana Susanne Rice, prima di alzarsi e andarsene, afferma che gli Stati Uniti sono furenti. Cina e Russia hanno messo il veto, ennesima conferma di come Mosca stia cercando di riaffermare la propria voce. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dagli Stati Uniti ci spostiamo in Francia per una storia di solidarietà. Rajinder Singh aveva 33 anni, gli amici lo chiamavano Babu, era nato nel Punjab, una zona dell'India dove c'è sempre guerra, viveva in un villaggio alla frontiera con il Pakistan, non aveva una casa ma un alloggio di fortuna che divideva con i genitori, un fratello, una sorella, alcuni zii, delle zie e tanti cugini. 7 anni fa se n'era andato a cercare fortuna in Europa ed era arrivato a Parigi. Mandava ogni mese soldi alla sua famiglia. Non sapeva parlare il francese ma aveva trovato lavoro. Consegnava pizze a domicilio. Quasi una settimana fa, Babu, per difendere una donna da un'aggressione, è finito sui binari della linea 7 della metropolitana ed è morto fulminato. Il suo aggressore è ancora ricercato dalla polizia. La storia di Babu ha commosso la Francia e per ripagare la bontà del suo passaggio su questa terra, centinaia di parigini stanno dando un po' di soldi per rimpatriare la salma e i gesti d'affetto si stanno moltiplicando. Questo dramma dovrebbe ricordare a tutti l'importanza di avere coraggio di fronte all'odio, sottolinea Jean-Louis, uno dei suoi amici. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di tecnologia. Dopo la presentazione del nuovo iPhone, il 4S, Samsung, azienda coreana concorrente di Apple nel mercato degli smartphone, annuncia: bloccheremo la vendita del melafonino. Nemmeno 24 ore dopo l'annuncio, deludente per molti, del nuovo iPhone, i concorrenti di Apple si muovono, ma non annunciando nuovi prodotti, bensì accusando Cupertino di violazione di brevetto. Il problema è che stavolta Samsung, azienda coreana concorrente di Apple nei smartphone e nei tablet, ha scelto proprio l'Italia insieme alla Francia per attaccare. Obiettivo: far vietare le vendite del nuovo terminale prima ancora che questo sia in vendita, ipotesi prevista dalle due legislazioni. A Cupertino viene rinfacciato il fatto che l'iPhone avrebbe al suo interno due brevetti sulla tecnologia wireless appartenenti a Samsung. Accusa non nuova, la mossa è solo l'ultimo capitolo di una guerra a colpi di denunce e controdenunce che ha portato i due giganti a scontrarsi nei tribunali di 10 paesi diversi. Per esempio in Olanda e Germania, dove la stessa Apple era riuscita a bloccare le vendite del tablet di Samsung, il Galaxy, che a suo dire copiava l'iPad. L'ultimo fronte apertosi era quello australiano. Dopo la consueta controdenuncia, Samsung aveva offerto un accordo per non dover ritardare ulteriormente l'uscita sul mercato del tablet. Ma proprio l'altro ieri Apple ha rifiutato. La rappresaglia coreana rischia ora di lasciare a bocca asciutta gli appassionati di tecnologia anche in Italia. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura il calcio. Un anno fa, subito dopo i tumulti avvenuti in occasione della partita Italia-Serbia, per la prima volta nella mia vita mi vergognai di essere serbo. Allora provai dispiacere e amarezza. Adesso provo un altro sentimento, la voglia di riscatto. Così Mihajlovic, ora allenatore della Fiorentina, ha raccontato le sue sensazioni in vista di Serbia-Italia in programma venerdì a Belgrado e valida per le qualificazioni Euro 2012. Sentiamo Mihajlovic. Quasi 20 anni che vivo in Italia, la mia famiglia è tutta italiana, perciò sicuramente una partita importante per me. Una delle poche volte, forse prima volta, che mi sono vergognato di essere serbo. Ecco. Quella partita là è stata una delle più brutte pagine dello sport serbo, quello sì. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie a Mauro De Angeli in regia, a voi per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.